Tra voi

Addio, Sua bellezza. scordo le gaudi sue. Annina, donde vieni? Da Parigi. Chi te commise? Fu la mia signora. Perché? Era le mal cavalli cocchi e quanto ancora possiede. Che mai sento? Lo spendio grande a viver qui solinghi. E tacevi? Mi fu il silenzio imposto. Imposto? Orba bisogna. E da Parigi. Orvanne andrò a Parigi. Questo colloquio non sappia la signora, il tutto valgo a riparare ancora. Tanto lusso a tutti è mistero questo. scoprio d'ogni vostro avere, or volete spogliarvi. Ah, il passato, perché, perché m'accusa? Io non esiste, ora ma fredo, ed io la cancellò. Col pentimento mio. No. Sensi un sacrificio chiego. Ma non tacete, terribile cosa chiedereste certo. Imprevidi battesi, era felice troppo. Dal freddo il padre, la sorte, l'avvenir domandar qui de suoi due figli. I due figli? Sì. Pura siccome un angelo Dio mi dia una figlia, se Alfredo nega riedere in seno alla famiglia, l'amate amante giovine, cui sposo andar dov'era, or si riposa dell'amor, ma non mutate in triboli le rose dell'amor. A prieghi miei resistere, no, no, non voglio il vostro cor, no, no. Non è ciò che chiedo. Cielo, che mio ce ne cade, offensi assai. Pur non basta. Volete che per sempre a noi rinunzi? È l'uomo. Ma no, a me. Siete e giovine col tempo. Ma più non dite, v'intendo, ma è impossibile. Pure, ma volubile sovente non io. Un dì quando le fermi, il tempo avrà fugate, via presso il tempio sorgere, e sarà l'or. Pensate, per voi non avrà il balsamo, i più sopravvia fatti, voi che dal cielo furono. Pensateci, ne siete in tempo ancora, e Dio che ispira giovine, e Dio che ispira giovine, e Dio che ispira ai detti angeli tu. Sacrificio, ora ti chiedo. chiamarlo, ditegli. Non crederò. Partite. Seguirò me. Allora. Conoscere il sangue.

Alfredo, al giungervi di questa foglia, ah! Padre mio, mio figlio, quanto soffri, o tergil pianto, ritorna di tuo padre. Orgoglio e vanto. Thank you. Thank you. vedete? Che non è vero, il vero. A voi non un sol detto si volga questo Alfredo. Non un detto, non un detto. Fortuna nell'amore, fortuna regga il gioco, è sempre vincitore. O vincerò stasera e l'oro va bagnato, o già goder tra i campi li tornerò beato. Solo no, no, tale che mi fumeco ancora. Signor, credatemi, io vi lascio. Parole m'appellaste, siete sì gran fortuna che al gioco mi tentaste. Sì, la sfida c'è. E dalla manca cento un asso, un falte, hai vinto il doppio sia un quattro, un sette, ancora pur la vittoria mia. Bravo davvero la sorte, è tutto per Alfredo. Hai miglior la spesa, hai baronte il vino. Seguite pur, la cena è pronta. Andiamo, andiamo, andiamo, andiamo. E via, pietà grandio, pietà grandio, disse. Se continuar m'aggrada, per ora non possiamo. Più tardi la rivincita al gioco che vorrete. Seguiam gli amici, poscia sarò qual bramete. Andiam, andiam. Famano, va mi lascia sulla vera e

promettete? Sì, devo dirvi. Prevenirvi volli una gioia improvvisa. Una gioia? Dicesti? Sì, oh signora. A te, a te venessi. E vieni, e vieni, a te, a te, a te. Sei. Da questo palpito si otterrò in pace, senza desistere più non potrei. Ma sangue in vita, ma il lido nero, per non uccidere, poi di nuovo. Scorda l'affanno, donna volata, a me perdona il genitor. Io ti perdoni, Daria, so mio, ma solo amor nel dirle te. L'uomo vero, l'angel mio, mai più dividermi potrà da te. Oh, andiamo, nel tuo ritorno, grazie rendiamo. Tu impallidisci. E nulla sai, gioia improvvisa, non entra mai, senza turbarlo, il mesto cuore. Oh, gran Dio, Violetta! E il mio malore fu debolezza. Fudulla, Annina, dammi a vestire. Adesso, attendi. No, fuori uscire. Non posso. C'è, che è vero, ma per il dottore. Vieni, vieni dal freno, è ritornato, all'amor mio, egli che vuole, vivere, ancor voglio. Oh! l'alma reina, dirmela, dei vive la Maria, ma strazia si terribili, qui non mi trasa il Dio, qui non mi trasa. Avrai il cielo.